nemmeno stadio qua. Facciami costringere la mano di mettere stadio con l'elastico nel microfono e voglio vedere se ci parli. Quando parli con me fai passaggi corti, non fare minacce, prima di tutto. Prendono tutto a schiaffi. Quarta cosa, io non ti ho mai telefonato, non mi interessa un cazzo telefonarmi. E adesso, Paolo, trova una scusa per andartene a fanculo, perché adesso mi hai scocciato, Paolo. Basta, eh? Uffa, tu non hai capito un cazzo, lo vedi che non hai capito un cazzo, ma ti ho detto, stronzo. Tu stasera cosa hai detto? Entro io, entra Lucasino. Se il casino lo fate voi, cosa vuoi da me? Avanza. Tanta Dingo l'ho già avvisato, per stanotte lui non ci può parlare. Domani notte si vedrà cosa fare. Capito? Roscio che me la metto in culo. Capito, vabbè. Pensate a voi stessi. Capito che io non ho bisogno di stare a combattere e non girare le carte, vabbè, perché io non ti ho detto che sei tu che mi fai squillare il telefono. Io ho detto che mi hanno fatto squillare il telefono, non è che io ho detto che sei tu, a me quella mi interessa. Ti ho detto solamente che non posso fare voci perché ce ne ho vicino. E quello, se sei la cosa che mi fate incazzare, quello scende giù e mi pesta. Non la voglio sapere nulla, ti sto avvertendo. Come abiti gli altri, avvetto anche a te. C'è anche che io scherzo, che ci sono in frequenza, ma potete dire quello che volete, di cotta, di cruda, a me non me lo faccio nulla. Però che mi dovete rompere i coglioni a dire che quando entro io entro il casino, a casa tua ti rompe il culo. Tanto mi hanno detto che c'è l'esco radio che è andato a casa vostra, capito? Perciò io, vedi, non ne dico nemmeno, non ne voglio nemmeno sapere dell'esco radio, capito? Tanto se l'esco radio viene qua, io ho tutti in regola, anche che Barchino non è della concessione, capito, stronzo? Io ho Barchino omologato, capito? Non ho un 200 canali come sei tu, ho 3000 canali, capito? Ho 241 canali, capito? Vabbè, io ho 40 canali, però mi venite sempre a rompere il coglione a me, chissà perché, eh? Prendi tu la gente e non dirgli no, andate a rompere il coglione a Falcone che sta parlando sull'uno. E adesso faccio casino, adesso qua non ti faccio parlare, eh? Bene, su 42, a me cosa me ne frega. Cosa credi che mi metto a paura? Faccio altri casino a notte, ti butto qua, ti butto là, ti faccio questo. Ah, cosa credi, vabbè? Se voi non rompete i coglioni, io non me ne rompo. Beh, per questo ti ho detto tutto. E già lo sa anche Dingo, perché quando voglio già parlo tranquillamente. Sei tu che mi hai giudicato, che hai detto, ogni volta che entro io entro il casino. E tu il primo che dici, che dici fesserie e poi dici che sono io. C'è problema, ci conosciamo, facciamo quello che vuoi, capito? Guarda, mi ha conosciuto pure Marco Max. Guarda se si comporta così come ti comporti tu. Stasera stavo parlando con loro e hanno dovuto cambiare il canale perché non potevano più parlare con me perché c'era quello lì che rompeva i coglioni. Già non so che non ne posso fare. io glielo tranquillamente. E tu, questo è Falcone, questo è Tizio, questo è Caio. Oppure ogni volta che entra Falcone entra Lucasino. Vedete se riesce a parlare.